Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Eccoci tornati a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. E questa è la nostra ultima puntata di Su Mafia e Letteratura. E adesso visto che siamo arrivati ai giorni nostri nell'ultima puntata, adesso passiamo avanti e facciamo un incontro con l'autore di un libro che adesso si presenta. Ciao, sono Gaetano Alessi. Ciao Gaetano, io sono Ilaria intanto. Io Valentina. E io Leonora. Oggi finalmente abbiamo un autore qui con noi, uno dei tanti autori di cui abbiamo parlato in questo nostro ciclo di puntate. Iniziamo subito con una parte del libro della quale vorremmo parlare con te quest'oggi, ovvero L'eredità di Vittoria Giunti. Leggo una parte. Questo lavoro nasce come atto d'amore, niente di più, nessuna pretesa di saggio storico d'opera letteraria, ma la ferma volontà di preservare e trasmettere la normalità di una storia straordinaria. Quando sento parlare di buoni maestri, penso subito a Vittoria Giunti, la migliore e più presente negli anni dei miei buoni maestri. Ah, va alla cappella come il Papa allora. No, spesso mi capita fortunatamente di fare la figura dell'autore vivo, perché specialmente quando si parla di mafia si parla sempre di autori morti, no? Vittoria Giunti per noi è stata la persona che ci ha fatto scoccare, in un paesino della provincia di Agrigento che si chiama Raffadali, la scintilla di essere uomini degni di questo nome. Noi venivamo da una storia di un comune rosso, diventa un comune ad altissima mafiosità quando Cuffaro diventa presidente della regione Cuffaro del mio paese, mentre tutti scappano. Vittoria Giunti decide che era l'ora di combattere la sua terza resistenza, raduna questo gruppo di ragazzini e dà vita a quello che poi è il giornale che permette proprio nel luogo in cui si riunivano mafia, politica ed economia, che è Raffadali, di fare una specie di resistenza, la sua terza resistenza, la nostra prima resistenza. Nasce un giornale e Vittoria poi diventa, con 60 anni più di noi perché era già 80 anni, diventa il nostro punto di riferimento che ci permette di combattere la nostra partita tramite il giornalismo d'inchiesta. E per quanto riguarda le resistenze di Vittoria Giunti, sappiamo che sono tre. Quali sono queste tre resistenze che combatte? Cosa bella di Vittoria è che Vittoria, quando noi la conosciamo, era per noi, noi avevamo 20 anni e lei 80, era solamente la moglie di Salvatore Di Benedetto, altro personaggio storico, altro partigiano, deputato, sindaco per 40 anni del mio paese. Però per noi era solamente sua moglie. Quando Vittoria incomincia questo rapporto con noi, cioè mentre tutti scappano lei ritorna, incomincia questo bellissimo dialogo fra un gruppo di ragazzini e la comandante partigiana, che ci fa conoscere chi era Vittoria Giunti storicamente. Figlia di una ricchissima famiglia toscana, si trasferisce su Roma alla fine degli anni 40, entra alla scuola di Panisferna, dove c'era dentro gente come Ingrao, Bufalino, Amendola, Di Benedetto, cioè quella che sarebbe stata l'ossatura della resistenza, combatte la lotta all'antifascismo in prima persona, aveva poco più che 20 anni, anche una bellissima storia di età. Finisce la resistenza, dove lei alla fine diventa una specie di scorta del marito, che salta su una mina, praticamente resta tremendamente sfregiato, gli viene detto da Ingrao di rimanere al suo fianco e lei il 25 aprile lo vede così e gli viene proposto di far parte della Costituente. Fai conto che parliamo di una ragazza di 25 anni e lei rifiuta, dice: io ho combattuto perché necessitava combattere per liberare l'Italia, però ora posso tornare al più grande amore della mia vita, che era l'insegnamento. Però c'è da fare un piccolo passaggio, accompagnare il marito in Sicilia, perché era sfregiato. Arriva in Sicilia, trova quella terra che era bloccata al tardo Medioevo, c'erano la mafia, i gabellotti della mafia che proteggevano i terreni, e l'esercito che proteggeva i mafiosi che proteggevano i terreni dei baroni, e decide di restare in Sicilia. Manda su telegramma all'Università di Firenze, resta, incomincia questo rapporto bellissimo con le donne siciliane sempre vestite di nero, con un dialetto incomprensibile anche per me. Questo rapporto la porterà poi a diventare il primo sindaco donna della Sicilia nel 1956. Infatti, a proposito di questo rapporto che lei istituiva con le donne, parlavi del fatto che lei andasse proprio a cercare un dialogo, un confronto con loro, e cioè la domanda è come, nel senso, o comunque che cosa c'era prima non c'era, e qual è la novità vera che lei ha portato nel fare politica? Ecco, lì cerco di uno sforzo di immaginazione, di immedesimamento da parte di chi ci sta ascoltando, perché Vittoria era una donna bellissima, era bella 80 anni, ma figura 30 com'era, era alta, sempre vestita a colori, che andava a incastonarsi in un territorio in cui le donne erano sempre vestite di nero anche a 20 anni, sempre a lutto. Mi ricordo mia nonna mi diceva sempre il suo sciallo nero che le copriva non solamente il volto ma anche spesso la dignità. E lei che fa però? Capisce che in quel momento in cui bisogna spingere, perché per la prima volta le donne in Sicilia contavano, perché durante la guerra erano state loro a portare su quel poco di economia del paese. E lei utilizza sempre una parola che poi utilizzerà 60 anni dopo anche con noi, perché poi le generazioni non è che siano molto diverse. Diceva, le parole sono solamente dei suoni, ci si può parlare per ore e non capirsi. Io non voglio che ci capiamo. Non voglio che ci parliamo, voglio che ci capiamo. E si capirono benissimo, perché le donne capirono che in quel contesto lì c'era veramente guerra civile in Sicilia, la lotta per la liberazione delle terre, 400.000 contadini in marcia, 2.000 morti ammazzati, ci si sparava negli angoli delle strade. Le donne capirono che per la prima volta o si mettevano loro davanti ai cortei o i loro mariti sarebbero finiti a spararsi con i loro fratelli. E si capirono in quella maniera. Poi si capirono 60 anni dopo anche con noi, perché poi te lo dico, quando sei arrivato al limite o capisci che bisogna avere qualcosa da spartirsi insieme o muori. Ora facciamo un piccolo stacco con una canzone che ci presenta la Vale col suo inglese perfetto. Ecco che ci ascoltiamo Personal Jesus dei Depeche Mode. Reach out, touch faith. Jesus. Vittoria era comunista. Tu hai scritto questo, vuoi farci un collegamento tra il modo di far politica di Vittoria Giunti e la politica di oggi? È inevitabile anche dire che è impossibile fare un collegamento. Dov'è il senso dell'essere comunista di Vittoria? No. Cioè, vediamo, è una persona che poteva essere tutto, poteva essere deputata della Costituente, quindi lanciarsi una vita di politica e di sedia, poteva essere un'alta matematica, perché era già, dopo la resistenza, assistente di alta matematica all'Università di Firenze, poteva essere sindaco, l'ha fatto per 4 anni, la prima. Invece scelse di essere parte di una comunità, da pari, cioè lei che era un personaggio della storia di questo paese, sceglieva di essere come mia nonna, che era una contadina analfabeta, nata e cresciuta in un paese, che sapeva di dover morire in quel paese. Beh, il senso di essere comunista di Vittoria, che poi è stato il senso anche di una grande rivolta siciliana, quella dei miei nonni, quella dei contadini, era quello di essere parte di una comunità. Oggi l'essere parte di una comunità è qualcosa che è assolutamente fuori moda, quindi non penso ci possa essere un paragone con l'oggi. E nel tuo libro racconti che Vittoria è la madrina, diciamo, di Adest. Ci parli un po' come nasce, qual è la sua storia, insomma. Quel libro nasce perché è il mantenimento di una promessa. Noi abbiamo una promessa che Vittoria ci fece fare 4 giorni prima di morire. Era il 28 maggio del 2006. Perché quando Vittoria ci racconta di lei, rilascia la sua prima intervista, c'è un pezzo di storia di questo paese, rilascia la sua prima intervista nel 2003 a un giornale locale, perché ce lo pone come scambio. Lei ci dice: voi fondate un giornale, io in cambio vi rilascio la prima intervista della mia vita. Ma non perché avesse voglia di raccontarsi, perché noi volevamo andare via, volevamo scappare via. Erano arrivate già le prime minacce, le prime intimidazioni, i licenziamenti. Era un'aria che non si respirava più in quel piccolo comune. E così nasce questo scambio. Lei ci rilascia la prima intervista e noi facciamo questo giornale. 28 febbraio del 2003. E il nome è alla fine una canzone, né più niente di meno, perché è il testamento di Augusto Daolio, il cantante dei Nomadi, poco prima che venisse a mancare. Ad est, perché non è mai finita. E nasce questo giornale di frontiera, assolutamente inutile all'inizio, perché era il classico giornalino che diceva la mafia è una montagna di merda, ma alla fine non faceva nessun tipo di problema. Dopodiché ci siamo messi a fare le cose seriamente, ci siamo messi il muso dentro gli uffici tecnici dei comuni in cui uscivamo e abbiamo messo a fare un contrasto molto serio all'attività criminale di quella famiglia che rappresentava il potere in Sicilia, e nell'arco di pochi anni, col piano dei rifiuti, gli abbiamo fatto saltare qualcosa come 4 milioni di euro. E allora in cambio hanno cominciato a farci saltare qualche gomma, hanno cominciato a tagliarci copertone, hanno cominciato ad arrivare i bossoli. Ma la cosa più bella di quel giornale è che un giornale che parte con 4 persone, contestualizzate sempre, un piccolo comune dell'entroterra grigentino di 12.000 abitanti, che però nell'arco di 10 anni ha poi coltivato oltre 100 redattori. Giornale di frontiera, come li chiamava Sciasso, un giornale sulle cose, che faceva le inchieste, che le regalava ad altre testate molto più importanti per avere modo che uscissero fuori da quell'ambito, che ha fatto contrasto alla mafia e alla politica in casa di quello che era poi il rappresentante massimo, Salvatore Cuffaro, in quel momento presidente della regione, e che comunque è stata una scuola di democrazia, sempre come Vittoria ci voleva insegnare. Quindi un giornale che faceva opposizione. Adesso allora vi lasciamo con un'altra canzone, e dici tu, Gaetano, quale? La canzone è quella che poi dà il via alla storia del nostro giornale, una canzone ascoltata da 2 ragazzi di notte al freddo, il giorno prima che decide di fare una follia. La canzone è Ad Est dei Nomadi, l'album è Contro ed è il testamento spirituale di Augusto Daolio. Si va. Eccoci di nuovo in studio. E volevo chiederti, visto che anche nel tuo libro della vita di Vittoria ci racconti un po' di cose, però ci sono alcune che sembrano sfuggire, per esempio la sua vita nella Resistenza. Non ne sappiamo molto, non ne sappiamo molto perché lei non ne ha parlato? No, come tutti i grandi personaggi che hanno fatto la Resistenza, si faceva molta fatica a fargli raccontare proprio del periodo della Resistenza. Neanche il marito, tra l'altro Salvatore Di Benedetto, un grande scrittore, si faceva fatica a fargli raccontare quello che era successo. Di Vittoria quello che sappiamo durante la Resistenza, che lei combatte, continuo sempre a dirlo, da giovanissima, a 25-26 anni, si ha solamente una lettera che poi abbiamo ritrovato a Udine, ce l'ha regalata, nel quale si racconta una sua scena di una stazione di guerra su Padova, quando libera Concetto Marchesi, noto latinista che poi divenne un collegamento fra gli alleati e i partigiani. Dopodiché rientra e ritorna su Roma, ma lei non ha quasi mai poi di quell'argomento mai voluto parlare di sé, sempre per quel concetto che vi dicevo prima, perché poi alla fine non era importante parlare di sé, al limite si parlava di sé solamente per cercare di creare comunità e dare uno stimolo a qualcuno per andare avanti. Quindi il personaggio era quello, era disegnato perfettamente in 80 e passa anni di vita. E per concludere vorrei chiederti qual è l'insegnamento che ti ha dato Vittoria o che ti ha più lasciato nella tua vita, insomma. Il più grande insegnamento è che da solo non si riesce mai a realizzare niente, bisogna sempre fare gruppo, bisogna sempre stare assieme, non bisogna mai chinare la testa e che non ci sono partite che non possano essere vinte. Vittoria, quando comincia la Resistenza, una strettissima minoranza del paese, e la vince. Quando incomincia la lotta per l'emancipazione femminile delle donne in Sicilia è una folle, ma 4 anni dopo diventa sindaco di un paese in Sicilia nel 50. Quando noi cominciamo la nostra partita contro Cuffaro, lui era l'uomo più potente della Sicilia e ne eravamo nulla. Mi ricordo sempre questa frase che lei mi disse nel 2003, dopo che uscì il primo numero del giornale. Mi dice: a me mi è rimasta solamente una piccola monetina, si chiama dignità, e me la gioco su di voi. 10 anni dopo io sono qua a raccontare la mia storia e Cuffaro in carcere. E quella che sembrava una partita persa invece si è dimostrata vinta. Un po' di coraggio e probabilmente non ci sono nemici che non possano essere battuti. Grazie perché è proprio un esempio anche in certi momenti che insomma sembriamo sempre un po' sfiduciati, che quello che facciamo non sembra mai abbastanza e sembra che questo problema della mafia sia una cosa irrisolvibile, soprattutto parlando con le persone per la strada, e sembra che sia una cosa che stiamo combattendo contro il nulla di fatto. Ma non è neanche vero questo, perché poi se vedi in Emilia rispetto a 5 anni fa, dove non si parlava di mafia, ora è comunque qualcosa che è di dominio pubblico, e più se ne parla della mafia più si aiuta a sconfiggerla. Certo, infatti. Grazie. Vabbè, ti ringraziamo molto, ci salutiamo. Oggi non abbiamo tempo per la nostra rubrica Buffie, ma non importa. Dunque occupiamo un po' di tempo parlando dei nostri tanti appuntamenti che incominceranno dal 4 marzo. Ebbene sì, Pietro, vedi che non ti boicotto come tu credi. Il 4 marzo abbiamo un aperitivo al Cucchiaio d'Oro. Innanzitutto il 4 marzo è anche carnevale, quindi io inviterei tutti a vestirsi e venire al nostro aperitivo. Se no non possono entrare, esatto, se non sono vestiti. Né mangiare né bere. Cucchiaio d'Oro in via Petroni. E sarà importante perché sarà l'apertura dei nostri tanti eventi che si concluderanno con... Vabbè, continuate. E il 12 e il 19 marzo abbiamo un contest musicale all'Arteria, e dove appunto alcune band musicali si contenderanno il titolo per suonare al Libro 1, 2, che si terrà invece quando, Ele? Si terrà il 4 e il 5 di aprile alle Scuderie. Un mese prima del nostro compleanno, ma non importa. Già. Comunque tutte le informazioni per partecipare al contest le trovate sulla pagina Facebook Zero Scuse Music Contest, oppure su www.liberraduno.it. Grande. Perfetto, ora ci salutiamo e vi lasciamo con una canzone, Viva, degli Zen Circus. Ciao. Ciao a tutti. Da questa sta finestra rotta con i vetri impolverati, non si vedono più muri, vecchi umidi e incrostati. Non ricordo dov'è il mare, nemmeno come è fatto, 400 euro al mese per un letto a sobbalco. Mutuo è molto peggio, me l'ho detto anche un mio amico, io mi fido ciecamente di quel che dice la gente. E gli altri siamo noi, e gli altri siamo tutti, e proprio questo mi spaventa, siamo diventati brutti. Amici siamo simili, ma certo non uguali, io lo so che sono in crisi senza leggere i giornali, sono in crisi da una vita, forse è la mia natura, anzi penso vivamente che sia proprio una fortuna, quella polvere nel naso non fa certo eccezione, con la voglia di essere sempre al centro dell'attenzione. Certo sono stato cattivo, chiedo scusa, ho sbagliato, la mancanza di rispetto dovrebbe essere un reato, come anche l'idiozia e questa malinconia che mi sale dentro al cuore quando entro a casa mia. Non generalizzare, nemmeno devi urlare, che non è comunicare ed è pure antisociale. Cucini lo sa bene, non ho voglia di far niente, anche se mai mi venisse a fermarmi c'è la gente. Il mio voto vale quanto quello di questo imbecille, allora cosa me ne frega delle vostre 5 stelle e di tutte le parole che vi sento blaterare sopra il bene comune, l'amore universale. Non provo vergogna se mi date del pezzente, certo io non ho il cash, ma di essere attraente, circondato da idioti, non me ne frega niente. Cosa ridete e di cosa urlate, perché festeggiate